fatta così, dai. Non posso stare contento. Capita che girare. Hai compreso, la 48, siamo sicuri che non fate cucchiaio, 747. No, te l'ho già usato, ma sta tenendo a 2 watt importante, 2 watt e mezzo importante, poi il picco massimo di modulazione non le fa niente al transistor. Il problema è non darle, non sovralimentare la portante, capito? Se tu sovralimenti la portante la bruci il finale, però se la portante la tieni a 2 watt e mezzo, 3 watt, il picco di modulazione non le fa niente perché sale e scende, quindi non è stabile, capito? No, paura mia, a caso che si chiudi e marreate, cazzo, non credia. No, non lo credo, me l'ha detto Roberto, quello di Italia, non lo credo, perché non lo fa niente. È molto importante avere una portante fissa bassa, una portante fissa bassa in modo che il finale non risenta. Poi il picco di modulazione va bene perché non è stabile, quindi mentre tu parli lui si muove e oscilla, capito? L'oscillatore stesso del lineare che lo mantiene. Se invece tu le dai 10 watt di portante fissa e poi ce ne sono 30 modulati, allora già al finale ne risente soprattutto quello transistor. Come transistor anche le valvole non cambia assolutamente niente. Io ad esempio quella LAN 48 al lineare grande le do 4 watt di portante muta, capito? E poi ce ne sono 30-35 modulati e lui spinge che è una meraviglia. Ecco, ma se volete ne a 2 watt canto te ne date. E che pericolo è giro citazione, ma non ha fatto questo nel manco. Lui parla per i suoi apparati. Cazzo, ma che ti culi parreate molti pure? Cioè, a quanto ti dà 2 watt? Gli è stato un vecchio, mi sembra Giuseppe. Allora, l'amplificatore che ho io, quello grosso della Kimberly, perché mi ha sistemato Roberto, che vorrebbe lui da sostituire, quello me l'ha fatto proprio in abbinamento all'LAN 48, capito? Perché lui ce l'ha uguale, l'LAN 48 che ho io ce l'ha anche a Roberto, e va di 10 watt. Quindi lui dice, se tu lo tieni a 4 watt, da 400 watt. L'importante muffa, tu schiacci lui da 400 watt, quando poi parli il picco di modulazione sale a 550, capito? Con 4 watt in prima potenza, in seconda potenza invece in uscita con 4 watt al picco massimo di modulazione va a 650-700, capito? Però è fatto proprio apposta perché mi ha cambiato l'ingresso della nodica, quindi anziché ricevere 10 watt di pilotaggio ne riceve 20, quindi è perfetto, lo tiene benissimo. Avanti break, mi sembra Giuseppe. Buonasera a tutti, Marco Condor da questa parte, ciao Claudio e ciao Bombolino. Sono qua a Piazzale, stavo provando un'antenna diversa da quella della barra mobile. Buonasera a tutti, riprendi Claudio. Si muove al break di Giuseppe Tornado, ciao Marco, mi ha ascoltato. Da parte mia c'è 9 più 30, ottimo segnale, l'antenna sta funzionando alla grande, credo senza nessun problema. Avanti Antonio, lo senti a Marco? Ma salutone Marco, qua è Santiago 5, e anche scarso pure, comunque lo saluto, siamo in Vicente. Ok, ciao Bombolino, anche io ti ascolto un po' bassino, ma secondo me non è un granché questa antenna, è una via di mezzo tra, come dire, di varie frequenze, praticamente è un'antenna prese calcolate, tipo la Outback 1999, fa 3, 5, 7, 14, 21, 27, 28, V e U, e l'ho regolata per la 27 perché ha la posizione apposita, solo che ho notato in ricezione dei segnali da casa inferiori, altre volte ti arrivavo 9,40 qua da Piazza dei Segni, o Cla. adesso invece 9.30, già c'è qualcosa di meno come resa. Sì, sì, sei in mezzo tra il 20 e il 40, proprio in mezzo, ho spaccato 9.30 con 140, questo è molto molto preciso. Abbiamo fatto le parature con Fabrizio, è precisissimo, sia questo che il 4.40. Evidentemente è così, sì, perché io mi ricordo che a Torresini arrivavi 9.40 pieno, invece adesso sei 9 più 30. Ma non ho capito, cioè, ma è quanto lunga questa antenna? Allora, per la 27 in questa posizione è 1,84 m. Poi ha una carichetta lì nel tronco centrale basso, una carichetta per arrivare ai 2,75, no, del quarto d'onda. Però è molto molto, è un pezzo di ferro praticamente. Sì, però permette in condizioni così di emergenza o se ti si scassa l'antenna di usare questa qui. Naturalmente l'ho accordata perché ho 1,5. Ma questa è quella che stavi provando stasera da casa? Ma avevo dei rientri paurosi, era attaccata alla stufa, quella con la bombola, tutta attaccata al muro, non andava bene la prova. Vabbè, adesso che so che rende meno, la lascio per i suoi usi, cioè ascoltare la KF col ricevitore, basta, non è un granché. Comunque ho 10 watt. Ma io ti ascolto bene, Marco, senza nessun problema. Tieni conto che Antonio ti sta ricevendo con un'antenna appunto da macchina in un'ottima posizione, quindi insomma 5 da lui non è male per la posizione in cui ti trovi tu. Lascia perdere a me che c'ho l'antenna eterna, lui già ti ha dato un buon segnale 5. Se tu lo stai ricevendo anche tu, qua è 9 abbondante, più di 9. La mia ricezione, tu quanto lo stai ricevendo al bombolo? Non ne hai, è vero che tu non ne hai di Smith, no? C'è, ma è strano. Praticamente lui qua arriva a Santiago 0, non si alza nemmeno, ma la radio è 4. È inutile questo Smith, anche se regoli il 9 con gli altri apparecchi, no. Il 9 di un apparecchio lo regoli qua, però i segnali sotto il 9 sono sempre minori. È inutile, non è uno Smith serio. Comunque vabbè, meglio questo che nulla, da. Ma considera che il tuo utente hanno 4 watt normalissimi, non so niente attaccato. Capa Bomoli, io ti ho ascoltato da casa quando attaccavi qualcosa in pare. O avevi un altro apparato, arrivavi Santiago 5 a questo smitter che non è poco, dentro casa con l'antenna appoggiata vicino al muro. Ok. Non c'è nessun altro in rotta? No, Marco, no, non c'è nessuno. C'è Giuseppe, io sono andato a mangiare, non so che fine abbia fatto. Gianni ancora non è entrato, Luca sta cenando, diceva andare a trovare un sanitario ospedale, poi sarebbe entrato in radio, però non c'è nessuno ancora. Staranno mangiando ancora, io non ho mangiato, mangio tardi, perché tra gelato intermedio, mezza salata, cioccolato, varie varie, io mangio sempre alle 11 e mezzanotte. No, a quell'ora non riesco a digerire, no, io ceno verso le 9 meno un quarto, così massimo le 9, ma non più tardi, d'estate, d'inverno anche alle 8, 8 e un quarto, così. Se non mi sveglio a forza di citrosolina, non riesco a dormire, sono digerito. Avanti, Bomboli, Bombolino del Cagiudo. Cosa stavo dicendo, Marco? Beh, quell'antenna lì non è la possibilità di metterla con qualche base magnetica sull'avanzale da qualche parte, sopra quei bracci dei fili da tendere, perché abbia una risonanza superiore a quella che aveva stasera? È negativo. Lato strada no, lato interno abbiamo i balconi praticamente in muratura. No, non so, se no all'angolo magari qualcosa con l'accordatore riuscivo a fare. Comunque oggi era una buona giornata per provare l'antenna Ringo sul terrazzo di nostra proprietà, che è una via più giù. Io ho intenzione di prendere un supporto per ombrelloni, volevo piazzarla su un paletto di un metro che ho preso e fargli una taratura base per poi averla quasi pronta per montarla su in terrazzo. Purtroppo non avevo il cavo pronto, volevo usare 5,50 di cavo per non stare vicino, se no fa rientro. Mi porto una batteria portatile, sai quelle per avviare le macchine, no? Che a 7 ampere con l'apparecchietto a 3 watt va bene, però non mi è venuto bene. Dovrò andare a fusare e pigliare 2 PL e 5,5 di cavo, o 2,75, così da. Claudio, vediamo un po' se conosci questa radio. Quale? Cioè, sto modulando adesso. Questa che stai modulando adesso? E questo cos'è? Il 3006? Ma che 3006, 3006? Cazzo, ce l'avevo avuta quanta la sera, ce l'avevo. Ah, questa è quella piccolina, adesso ho sentito il bip. Mi sembrava il bip del superstar. Questa è quella piccolina, no? Adesso provo a attaccarla, la faccio sentire, ho attaccato il trasformatore, accendi i sigari, vediamo un po' se mi sente cosa, va, adesso non mi viene. Lo senti Marco, al bombo? Fatta, il segnale qua non è cambiato, forse la radio è un po' migliore. Io lo dico da là, No, non so, variazioni poco e niente, forse stai parlando più forte, Momori. Gaffa, riesci a sentirmi? Hola. Ah, che bip strano che c'ha. Quello cos'è, Lafayette Venus? Gaffa, Lafayette Venus, lo conosci? KK, li conosco quegli apparecchi alla Lafayette, l'ho visto su internet che c'ha il display giallo e tutti i comandi. Naturalmente io avrei un po' di paura avere un apparecchio del genere, perché lì è tutto cavi, cioè una cosa è cambiare il microfono, no? Se si interrompono i cavi, però lì praticamente controlli tutto l'apparato. Sembra così, ma funziona molto molto molto bene come apparecchio. Eia, ma quanto ne sta dando? 4 di più? 4 watt, c'ha due colonnine, c'ha, come si dice, e poi niente, c'è così come la colonnina sopra il microfono, la colonnina dell'apparecchio, ci fa tutto dal microfono, ci comanda tutto dal microfono, un bel apparecchietto, dai. Per l'altro va bene, se uno non ha pretese, sai, perché tutti adesso mettono i microfoni amplificati, tranne me che non ne ho voglia, che poi qua è un casino, che ci arrivano 8 volte al microfono, alla presa microfonica, se sbagli qua bruci tutto. Gaffa, ma va bene, adesso te ne faccio sentire un altro, lì aumenta il segnale però, aspetta un attimino, avanti qua. Ehi, perché hai preso autovoce? Cosa c'hai tu? Su quella che usi macchina hai preso autovoce? Cioè. Cappa, il manuale dice che su questo apparato alla presa microfonica arriva del voltaggio. Infatti hanno detto, se mettete microfoni di altro tipo, di stare attenti, appunto perché se sbagli i collegamenti va in corto e fa danno grosso, cioè più grosso, relativo, là. Come questi della Chiemo dove c'hanno 6 voci, 8 voci, quello della ICO, un sacco di microfoni, quelli che superano le 4 punte c'hanno sempre 8 voci, perché c'hanno il comando dei canali dal microfono, capito? E quindi è un casino, noi bisogna stare attenti, maledizione. Poi questo in realtà non è un Mac normale, all'interno ha un piccolo circuitino per addettarlo ad amplificare. Io non l'ho toccato, potrebbe essere in posizione normale, teoria si può aumentare. Qua non ne vedo motivo di aumentare. Credo che anche un palmo si senta. Aspetta, ecco qua, adesso sono un palmo abbondante. Come va la radio? Più bassa, però già è abbastanza comprensibile. Un vizio ho questo apparato, ha le alette dietro, ma scalda non bene, adesso lo metto a 8 watt. Ah, poi una cazzata gli hanno fatto a questo apparato. Praticamente in SSB puoi cambiare, puoi abbassare da 20 a 4 watt, invece in AM non cambia, cambia solo da 10 a 8. È una grande puttanata, perché se devi pilotare i lineari, come mi è successo, quello che ho dato a Giuseppe, rischiavo di creparlo, più di meno di 8 mi dà, aspetta che abbasso. Adesso io ho 8 watt, non è che raffreddi molto di più la letta, però inutile mettere. Ma va meglio adesso. Allora, qua c'è Santiago 1, la radio è un po' migliorata. Cappa, vedi che è aumentato. Cappa, da te è aumentato, vero? Come si ne dice adesso? Cappa, allora faccio sentire a Marco il terrore della notte. Che tu ci va tutto bene fuori. No, non hai compreso, no. Quello che ti il baracchino spacca orecchie. Sì, io lo spacca orecchie. Bomboli. Avanti. Già sentito. Tu passavi praticamente da Santiago 0 a Santiago 5 a casa. Già ho sentito, quello sì che è una spacca orecchie. Quello è un apparecchio come si tocca. No, vabbè, quello è apparecchio che vuole usato in una certa maniera, in certe ore, non è che lo puoi trattare a notte, non lo puoi usare per fare una prova, ma non papà purotto, cioè a notte fa casino, però durante il giorno si usa per fare questo, si fa sentire da lontano, hai capito? Lo so, quello è il suo scopo, quello anche se sei Santiago 0 lì di Radio 5. Sono belli. Li vende Delta Mic Store in Sicilia, sono belli, solo che sai cos'è? Mi viene il patema d'animo che disturbi gli altri canali, soprattutto se sei in sede fissa, cioè perché splatterano, quando sono i grandi modulatori sul 45, anche di fuori, è terribile. Aspetta un attimino, 2 secondi. Io non l'hai mai sentito, Marco. Caspita, se l'ho sentito, io vi ascolto sempre, è una vera bomba. Comunque anche mi pare con l'eco disabilitato, bello, mi piace. Se non fosse che costano un bel po'. Poi hanno quel sistema lì, magnetico, un bijou. Recovero, un controllo, cambio. Io lo uso anche senza il sistema magnetico, capito? Lo uso con la saletta, era una bomba. Avanti, Didi Volca. Oh, Claudio, dai, che tu se c'hai più orecchie, c'hai le orecchie più grandi. Sto scherzando, dai. Dammi un parere o un collo di questo apparato, se da mettere sotto la ruota del camion o è da far girare, se va bene. Guarda, per me la tua modulazione, Gigi, sei tu che lo porti, quindi non c'è niente da fare. Ottima radio, ottimo eco, ottima presenza, modulazione ad hoc, tutto regolare. Marco, lo senti a Gigi Vulcano da Ottava? Marco? Oh, dimmi Cla, scusa che è arrivato Ivan qua. Oh, ciao Cla. Marco, Ivan, ciao, buonasera. Ho detto, lo senti Marco a Gigi Vulcano? Vedi tratto il break, a Gigi Vulcano lo senti da Ottava? Attento Gigi Vulcano, ci ascolti Marco. È positivo Marco, buonasera, no, io già ti ascolto, i problemi saranno i... No, stavo provando un apparatino che ho ritirato di un amico, ma se prova, ma se gira bene. L'ho attaccato. attaccato, lo stavo provando adesso, dai. Tutto qua, con la buonasera. Commettenti. No, no, ti ascolto, scusate un attimo che abbiamo qua una questione veloce, arrivo subito. Ti ascolto, 5-9. Buonasera, se ascolti me. Se quello che state aspettando per me va bene, ottimo. È positivo, non è il mio, capito, è di... L'ha fatto a, come si chiama? L'ha fatto Roberto a, come si chiama? A Luca, dai, a Luca Montenurra. È una da 48, non lo so, io adesso non so se ho fatto le regolazioni per bene, però, Claudio, questo è molto attento, questo è molto importante, questo che sto girando adesso, se mi cambia la voce o la modulazione girando questo pomello che sto girando adesso, cosa è successo? Ti aumenta la radio, ti fa la timbrica più bella, lascia la manetta. Ma così ho girato, allora così è una parte, così andando, adesso non so se funziona a destra, a sinistra, così è tutta la parte opposta, tutta a destra, così è tutta a destra e così è tutta a sinistra, capito? Come è meglio, tutta a destra o a metà strada? Secondo me è a metà strada, perché ti cambia la timbrica della modulazione. Sì, questo è poche parole, chi c'ha la voce più fine, più collo, vedi, se forse sicuramente così gliela ingrossa di più la voce, giusto? Vedi, girando così si fa la voce più grossa, giusto? Sì, è positivo. Oh, comunque sì, è sempre buona qua, eccellente direi. Marco, copi bombolo. Cappa bombolo. Allora, qua il segnale è sparito, però la radio è buona, molto buona. Quando sto arrivando in Santiago? Uomo lì, zero arrivi, però la radio è 5. Comunque non contarlo questo smitter, ricordi che questo smitter non serve, è puramente così indicativo. Dai che fa con questa radio, se no faccia la reggi, no? Claudio. Ehi, arrivi Marco. Sì, Ivan si è allontanato un attimo che a comprare le sigarette, che se no muore. Mi ha detto, diritti, per quella cosa quando ci possiamo sentire? Per quella cosa quando ci possiamo sentire? Ah, e mi ci vediamo piacere scene e parliamo di persona, vai. Non c'è problema, glielo so, lui la mattina mi trova lì. Sino a quando non rientro da lavoro, io tutte le mattine vado via, prendo le sigarette, la colazione, eccetera. Quindi anche domani ci vediamo, ne parliamo. Ok, adesso io comunque fra un po' mi devo allontanare che vogliamo prendere il caffè. Purtroppo questa antenna la devo togliere perché il movimento, questa base da 16 andrebbe bene, però i rami sono troppo bassi. Qua praticamente la prima parte dell'antenna è grossa a un diametro di 2 cm. L'intermedia 8 mm, poi c'è lo stilo lungo, però sono troppo bassi, se becco un albero qua si spacca tutto. No, spacca la Marco, poi quando rientri magari la depiazzi, spaccala che è meglio, già siamo qua noi, prendetevi il caffè tranquilli, noi già siamo qua, non c'è problema. Ma non entra nessuno alla radio stasera? Non c'è niente, c'è Gigi, c'è Antonio, deve sentire Luca, mi fa un po', forse sta mangiando. Gianni aveva un problema sul magneto termico a casa, quindi non so se c'è l'elettricista, si è sistemato, se l'era cambiato, non lo so. Ma la sera c'è abbastanza gente, siamo sempre qua. Ce n'è, anche durante la sera già c'è sentito, siamo sempre nell'aria qui facendo chiasso, quindi non ci possiamo lamentare per le giornate che stanno facendo, già c'è meno gente in radio. Eia, certe sere c'è più gente anche, a me poi te l'ho detto piace più ascoltare che parlare, però finché non ho l'antenna a casa, su, è un casino, dovrei uscire in macchina a rotolare le palle, poi torni, non c'è parcheggio da me. Poi quel problema ce l'ho via Pasqua, ogni volta prendo la macchina al garage, mi metto là dentro, così, prendo un sacco di contravvenzioni in via Pasqua. Non ho problemi, apro il cancello, sono dentro, c'è il mio posto alto, quindi non... posto nel due posti alto, quindi non ho quella rottura di balle. E quindi Gigi Volta cosa... ma ce l'ha fatta nuova questa radio, l'ha rimodernata, cosa ha fatto lui? Da come più o meno la vecchia, diciamo, ha tolto quello che c'era dentro, come la tua, gliela ha messa un po' attivata, è fatta come la tua questo sistema, sarà mita, attivi, disattivi, e però ho notato una cosa, che i vatti quando disattivi risalgono molto di meno qua sul canale normale. Voglio dire, quando le togli non passi la calamita, lo smith sale di meno qua, e anche i vatti, forse scollega il doppio modulatore, non lo so, però spinge di meno, non salgono i vatti come salgono adesso i picchi, capito? No, la mia con la calamita e senza calamita i vatti sono uguali. Il doppio modulatore rimane inserito, è un sistema troppo bello, per quello che non l'ho fatto fare oggi. La mia, quando passa la calamita, attivi l'eco e basta. Tutto il resto è sempre attivato, anche senza eco. Sia i watt 40 pieni, sia il doppio modulatore sempre in funzione. Infatti io ho il Mickey Game, mica lo tocco, non tocco mai niente quando è disattivato. È sempre regolato come quando lo attivi. E col microfono da tavolo lo tengo basso perché altrimenti la modulazione spacca le orecchie. Positivo, ho capito, ho capito. No, già lo conosco, già lo so come è fatto. Era il mio. Lo so come è fatto, dai. Lo so come è fatto. No, l'altro che c'avevo prima, io ne avevo quel 48 che c'avevo io, era così. Tu staccavi e niente, non staccava nulla. Il vatti erano sempre uguali, capito? Arriva il bip e l'eco, i canali sopra e sotto. Però i vatti rimanevano sempre quelli. Invece questo no. Questo, visto che tornano i vatti più o meno normali, i picchi non salgono più, deve essere che non normale, arrivano a 10, a 10 ci arriva lo stesso quando vuoi, però non c'è la regolazione dei watt, questo è già regolato dall'interno, hai capito? E 3 watt dall'interno e boh, l'importante è bianco, al posto dei watt c'è questa tonalità della voce, capito? Come l'altro che c'ho io, gli ultimi che stanno facendo, capito? Per non sbagliare non tolgo direttamente la regolazione dei watt, così lo danno già fisso da dentro e così non sbagli mai tu. Lo so Gigi, però a me piace così, infatti devo scegliere il tuo. Io ho la regolazione dei watt anche per regolarlo sugli amplificatori, la potenza non cambia, rimane sempre quella. Va bene, no, il mio va bene, va benissimo. Se non lo passo il magnete, la calamita funziona perfettamente con tutti i watt che vuoi, da 0 fino a 30, lo puoi usare senza amplificatore, con l'amplificatore te li regoli tu, oramai so già le potenze, so già le posizioni, capito? L'unica cosa che non tocco è il Mickey Game. Il Mickey Game lo lascio sempre così, sia attivato che disattivato. E mi lo seghi, sono una buffoneccia. È bello per quello, infatti non lo voglio far toccare, sia quando funziona lo lascio stare così, quando poi non funziona allora troveremo una soluzione. Avanti, bomboli. Cacca, e lì stavo un pochettino riordinando qua che ho fatto un casino, ma era un cazzo, ne ho tolto tutta la radio. Questa è un'altra ancora, vediamo se Marco mi sente. Credo di sì, Marco. Marco ce l'ho a fianco. Oh Cla, ascolta una cosa, ma per quella roba quando è che ci troviamo? Se ci vediamo Ivan di persona ne parliamo, quello che abbiamo fatto. No, è perché io non avevo il tuo numero del cellulare, non so se tu lo abbia il mio. Sì, ce l'ho nella macchina da lavoro il tuo. mio, un'agenda c'è ancora, una macchina lavoro non l'ho mai presa, non mi serviva, invece quasi me la faccio portare a casa, se rimango ancora a casa me la faccio portare perché ho degli appunti che mi servono. Ma qua non mi sento oro qua. D'accordo. Affermativo. D'accordo. Ora io devo fare un attimino di bianco perché devo andare a vedere una cosa. Riprendo fra un pochino, se... Andà bene, buona sera a tutti comunque. Oh, il bombonio. Sta bello caro, ma dove sei? Piazzale. Segni. Ragazza, cosa bella. Passo sono. Ma sei forte, ci mancherebbe. Eia, riprendi qua. Ciao Motopo, buonasera, ben entrato. Ciao Giuseppe, sono per mangiare e parito. Va bene. Vai Gigi Vulcan, riprendi. È positivo, Fla. Ti volevo dire, adesso domani imbarco e rimango fuori 2 giorni, dai. Rimango in barco domani mattina a Porto Torres, con quella che parte la nave che arriva lì al Morovicchio, quella della la francese. Imbarco domani, sto 2 giorni fuori e rientrerò. Allora, domani martedì, sarò martedì e mercoledì e poi rientrerò giovedì. In Corsica, a piano da qua, vado a Porto Torres e rientro poi da Bonifacio, giovedì. Con l'articolato? Ia. Allora tu via Corso. No, non si chiama. Giampaolo. Sì, è per loro. E beh, domani c'è la nave, domani c'è quella francese, lì all'alto fondare, c'è quella lì che... E sì, e ci sono anche quelli di Stanno, visto che ne imbarcano. Sì, beh, loro imbarcano diversi, difficili semplicemente, cosa domani da lì, già visto. E se lo vede già un po', salutano, non si è fatto sentire, positivo, là, positivo. E beh, alle 3 parte domani, alle 3 arriverò alle 6, poi c'è anche Mario, l'altro collega mio, e viaggeremo un po' domani notte, se facciamo un po', perché attraversiamo dall'altra parte, ci facciamo un po' di strada domani notte al fresco, poi ci prenderemo qualche porto a cenare e poi dopo domani mattina continuiamo là. E poi se rientrerà l'indomani e se ce la facciamo anche mercoledì se ce la facciamo a imbarcare. Sì, io ce la farò. Una volta che si tiene tutto già rientro in fretta. Sarò voi salutami la giampa, non l'ho più sentito. Un giorno l'ho sentito, ma addirittura della Corsica. Nel canale. Il mio corso era 42 o 43, l'ho sentito, arrivava anche bene, molto bene, infatti pensavo mettesse il gambo per il culo, invece già tutto ho capito che era lì, che il signore saliva e scendeva. Ok, Antonio riprendi, a Giuseppe lo voglio dire a te. No, negativo, è casa sua perlomeno. Comunque già arrivi da lì, non ti preoccupare, lui sempre sei fuori. Già arrivi in Sardegna, non ti preoccupare. Giuseppe, oh, mi ha telefonato, non c'era niente da parecchio, era a posto, era solamente fusibile, tutto e quindi dovrebbe essere la sua, penso. Ma tu sarebbe entrato, ma avessi stato molto, vero oggi. Quando ho finito con la radio, l'ho bruciata, non so poco. C'è la lampadina, Antonella, bruciata. Però ho visto che entra dentro lo smitter, quasi tutti gli esercizi hanno fatto. È tutto nero, quindi non l'ho toccata. L'ho lasciata fare così. L'ho tutta rilasciata, ho messo a posto, l'ho così. La lampadina rimane lì. sentito solo Giampaolo, quelli che c'erano del posto lì in camion, non del posto di Crusica, ma di qua della Sardegna che erano lì, sono quelli che stavano viaggiando lì. Poi altri di fuori non ho mai sentito nessuno, addirittura c'era la Maddalena, all'epoca c'era Giovanni l'originale, non sono riuscito neanche a sentire a lui che ce l'aveva uno schiocco, si può immaginare. Neanche quel Remme c'è in quel posto lì, senti solo, neanche quelli francesi non li senti, quelli corsicani non li senti neanche, non ne senti neanche uno a barattino, senti solo quelli sardi che ci sono lì in camion e basta, non senti altro nessuno, io quante volte sono stato non ho mai sentito altro nessuno lì. Sì, vabbè, comunque una volta c'era Walter, arrivava sino a, solo la Madre, anche la Corsica arrivava. Poi da Osilo addirittura mandava gli anni Bravo 2 e parlava tutti i giorni con la Corsica. E bravo c'è di solo adesso. Se tu ti metti in macchina per dire, se io domani sera per dire alla una, di là sopra ti chiamavo e tu ci rispondi subito. Perché un treno a Osilo per la Corsica. Il discorso è, vabbè, ci vivo non ce ne sono più ormai. Pochi ma buoni, comunque gli arrivi a Sassari, sta tranquillo, poi ci arrivi. Oggettivamente per portarmi il coso per il test per l'alcol, dicevi obbligatorio lì, io l'altra volta non ho portato, dicevi obbligatorio lì. Boh, a me non mi ha mai chiesto niente la verità, sono andato un mese fa, non mi hanno chiesto niente a me, siamo andati in due, e nel traghetto, lascia perdere che mi sembra strana questa storia qua, Per papà, per il tuo cosa vuoi bere, arrivare lì alle 7 del mattino, secondo te, a fare il test per l'alcol. E secondo me non è anche l'uscita, perché lì massimo 5 e mezzo mi sembra che devi andare, se no l'ultimo traghetto è quello, se mi ricordo male. No, è sempre più tardi, per le 6 e qualcosa, se non me lo ricordo. Non c'è neanche più tardi, no, fare qua per cosa c'è più veloce, maledizione, quello più lontano, più, vabbè, se tu al tempo, se tu parti per esempio da qui, da Sassari, andare a Santa Teresa a prendere le cose, e trovi la traversata, se io non la stessa cosa qua ci mette tre ore qualcosa, mi dà fuori l'ottore, solo che cazzo dobbiamo attraversare tutta la corsa, che cagamo, dobbiamo andare vicino a Bastia, dobbiamo attraversare tutta. Mi sono fatto un mezzo di traghetto io, figurati tu, ma traghetto, non traghetto normale, traghetto balla balla, cioè non sapevo neanche dove c'avevo il bicchiere in mano, figurati tu, è una cosa, guarda, allucinante di, se tu vai, che sei appena, che hai fatto colazione, sei fregato, vomiti tutto. Sì, già lo so io già, è andato, c'è un altro collega lì da poco e si è fatto sul viaggio vomitato. Quindi Giampaolo lo sa, Giampaolo l'altra volta eravamo Giampaolo, c'erano chiedi qua, c'è un punto, qua alta questa è punta nostra, c'è qua a ballare di meno, dice, non ti sedere, c'è un punto in mezzo che ci mettiamo tu a un angolo, lì, no, e lì è quello più fermo, hai capito, balla di meno. Perché se quando dove ti siedi, caso sbagli che è una cosa tremenda, Non dire a me, mi sono alzato io dalla cosa, che non sembrava, cioè, la verità non sembrava neanche stavi ballando. Vado al centro della piattaforma per dire, no? Per andare fuori. Cominciava a destra, sinistra, a destra, di un tacco, era molto cazzo. Sembra di essere il corpo, senza bene. Ma poi mi sono sentito, va a far culo, non ci vado neanche fuori. È certo che è brutto, invece deve essere, all'inizio, c'è un punto all'inizio, infatti tutti qui lo sai, camionisti e cose, quelli che viaggiano sempre si mettono lì perché lo sanno che lì è il punto più buono, capito? Al centro non si siedono mai, capito? No, ma questa che parte da produttore, se no è quella più corsa. Poi quella è andata via alla Senara, chissà i civilini che tanto guardava, quella già parlava veramente da produttore per la Senara. Non la sarà di quella che c'è adesso, quella è perfetta oggi, l'altra che c'era prima, chi l'ha piatta? E quella piatta se ne vanno col camion su, l'articolato, con la motrice d'articolato, vissami, e sola, fateva la quale a muovarsi, e sola, ma tu vuoi stare via a metà e coso, tornare indietro perché non c'era, perché era un casino lì a Calavera attaccare, perché non c'era, non poteva, diciamo, ci aveva, come si dice, per ancorare, come si dice, non la poteva ancorare, e quando arrivava lì il mare doveva essere calmo, quando lui appoggiava non poteva, non c'era una cosa per legarla, per ancorare, capito, non c'erano punti per ancorare, e come bastava, se si muoveva, si spostava la rampa e ci cadeva in mare con il camion, capito, e allora non lo faceva per quel motivo lì, non perché non teneva il mare, perché non riusciva a bloccarla, a fermarla lì a Calareale, a attaccare, capito. Non c'è nuovo a Calareale, non c'è nuovo, e loro calano la, il, praticamente la rampa nella banchina, capite? La banchina, quindi se il mare è calmo va bene, non scivola, ma se è calmo non si sposta, che viaggia molto, da lo so, sì, lì ci ho viaggiato per 6 mesi l'anno scorso, quindi già lo so. Adesso quest'anno, ma vabbè, già dall'anno scorso avevano cambiato, avevano messo la Saradica e quelli della Sare, ma che sono a muso con la nave normale, insomma, vabbè, non sono piatte e quindi già funzionano bene quelli, ma lascia, per carità di Dio. Non morì. Ma chi è quella? Da dove ci prende la nave per la corsa? Di quello sta per parlando. E era all'alto fondale, sì, dal Morovic, l'alto fondale si prenderà quella per la Cusca, proprio l'altro si prenderà Santa Teresa. Ho visto che c'è chissà questa specie di traghetto, cos'è? E boh, che feo. Poi c'è una cosa che ha detto, ho visto che andava a Zinara che teneva quel camion, quello era brutto, a volo, quello, ha detto, puoi mangiare tu, Claudio, abbiamo fatto tutta la strada, quella in cemento, là. Io ho portato tutta la rete elettrosaldata che non mettevano sopra la, e poi gettavano il cemento, per tutta la strada che, quella in cemento, era bianca, prima era bianca, no? Che hanno fatto il cemento, tutto, immagino, ho portato tutta la cosa, ancora non era fatto il Casa Reale, era vecchio, tutto abbandonato, la Casa Reale, la cosa lì, l'hanno tutta rifatta nuovo, tutta, l'hanno fatto lo scheletro con la rete elettrosaldata, l'hanno tutta rifatta nuovo, se no era vecchia, vecchia, quella lì quando, quando andavo io lì, poi l'hanno tutto rifatto lì, la cosa, la Casa Reale, tutto dietro, hanno messo a posto, ha fatto il tetto con le travi in ferro e tutto rinforzato, dove sapete, hanno tutto messo a posto le case dove c'erano le guardie, e quando andavo io c'erano ancora i carcerati ancora, e quando andavo io che stavano facendo quella strada lì, c'erano ancora i carcerati lì, capito qua. Perfetta, anche se c'era appena di mare, non ballava, perché che c'ha la prua proprio come la nave, è fatta veramente bene quella. È positivo, positivo. No, all'epoca era diversa la cosa, ci voleva, allora c'era il permesso, tu che dovevi andare, c'era il permesso da Ministero della Giustizia di Roma. A me solo i primi giorni mi hanno controllato, poi non mi hanno controllato più, poi perché sono stato più di un mese, sono stato 3-4 mesi che ci viaggiavo, a volte riuscivo a farmi anche due viaggi, io dalla Salisi qua da Bretagna e da Lasinare, in un giorno riuscivo a fare due viaggi di rete, capite, riuscivo ad andarci due volte anche a Lasinare. La maggior parte facevo sempre due viaggi, è stata già che capitava il tempo brutto, allora no. E niente, poi arrivavo lì, tanto loro sapevano già che quelli che arrivavano lì e non mi controllavano più, andavo tranquillo da una parte all'altra e non mi controllavano più, però sì, anche un giorno qua. E poi ci ho pensato, ma poi in qualche giorno ci ho pensato, la minchiata che ho fatto, mi sono portato a Pierpaolo un giorno, tu immaginati, mi sono portato a Pierpaolo in camion lì alla Sinara a scaricare, per fortuna il giorno ho scaricato dietro Calarreale, non sono andato molto giù, se no se me lo trovavano in camion o me lo vedevano in camion erano cazzi amari per me. Ti fanno più entrare perché ti ho il permesso. Anche io molte volte mi dicevo anche gli amici, portami perché io ho la macchina lì, attualmente ancora c'è la macchina di servizio, è una macchina vecchia che usiamo per quando andiamo per spostarci all'interno della Sinara. E quindi vai, portami tutti capo con te, mi lasci lì al mare, poi mi riprendi il capo, non posso portare nessuno. Nel modo più assoluto non posso portare assolutamente nessuno, infatti avevo fatto vedere il tesserino che era per una persona, ho fatto le fotografie, ho deciso il riconoscimento e come sbarcavo me lo dovevo attaccare, capito? Perché se ti vedono che stai girando così, poi io salivo, scendevo in macchina da Calareale, scendevo a Fornelli, tornavo a salire perché sono i vasconi lì, quindi mi riempivo, nel frattempo che riempivano i vasconi andavo a Calareale a controllarmi di salattore, poi andavo a Fornelli a controllare il depuratore, capito? Quindi stavo vai e vieni, cazzo di vedere in due con questa macchina e ti possono fermare, già c'è le scritte la macchina, però cioè, trovi quei carabinieri da forestale che non ti conosce, magari gente nuova ti ferma e quello non c'ha tesserino, dice con che cosa è entrato lui qua, con quale permesso è entrato, e passi guai tu e l'azienda e tutto quanto, è un casino, bisogna fare molto molto attenti, no, io c'ho un casino permanente, ce l'ho ancora adesso sempre in tasca, non ci sono problemi, posso andare anche domani mattina anche se sono fuori servizio, entro tranquillamente, non mi dicono assolutamente niente, capito? Non c'è problema, ce l'ho permanente proprio, non mi scade mai, sino a quando io non vado via dall'azienda, non andrò che tirano, ma sino a quando rimango in questa azienda abbiamo il potabilizzatore, il depuratore, quindi non ci sono problemi, capito? Ecco perché io infatti ci devo andare adesso a metà luglio. Ma vado a passare qualche giorno così in tranquillità a farmi tranquillante perché c'è l'alloggio lì a Calarolingua, capito? C'è l'alloggio lì all'ostello, c'è una camera con il letto doppio, il bagno, posso mangiare all'ostello tranquillamente, quindi ne vado un paio di giorni a rilassare. E se deve venire qualcuno con me, devo saperlo per poterle fare il permesso, altrimenti non lo posso portare. È positivo, prima era diverso lì a Calarolingua, mannaggia la miseria, compravamo il formaggio, la carne di cinghiale, tutto ti vendevano a pochi soldi, li pigliavamo, capito? C'era lo spaccio, non so, adesso va bene, non mi so più riguardi, non so come ti sia, ma prima li facevano il formaggio, le cose lo vendevano, c'era lo spaccio lì a Calarolingua, pigliavamo formaggio, carne di cinghiale, tutto lo vendevamo. Certo, mi manetto di burro, le portavo io a mamma, di quelli grandi, di fatto da un chilo, fatti lì, ma buoni, io lo mangiavo col pane abbrustolito, era la fine del mondo, no, adesso non c'è più niente. Lo spazio è chiuso, c'è qualche pastorello, ma infatti. Deve essere un po' bassa la batteria. Adesso va bene? Adesso va bene. Riprendi che va bene, un secondo che sto volando. Aspetta Marco, così una curiosità, e te la posso chiedere una curiosità. Ma dove l'hai collegato alla CD Sigari, giusto? Cappa, però il problema non è quello. Il problema è che qua quando spengo il motore fischia. Sembra che la batteria sia come spompata. Appena l'accendo va tutto bene. Ho usato anche il cavetto dentro la batteria, ma era la stessa cosa. E allora l'ho tolto perché per motivi di sicurezza. No, no, fermo un attimino Marco. Allora, questa è una cosa che è già successa a altra gente. Io portavo di questi apparati qua a fare, li mettevo, li provavo in fuoristrada, in macchina, con una batteria grossa, non batteria piccola, batteria grossa, messo nella CD sigare, accendeva tutto a fischia, innesco qua, lo provava e non andava, girava il quadro, metteva in moto e funzionava bene. Detto, non è la batteria terra, perché sennò avrebbe messo in moto manco la malvettura. Il problema è che forse sono troppo sottili i fili, non lo so, o che arrivano lì alla CD sigare, qualcosa del genere. Se tu invece gli metti un cavo come si deve, abbastanza robusto dalla batteria, direttamente alla batteria, vedrai che quello scherzo non te lo fa più a te, anche a motore spento. A me è sempre funzionato bene. Già fatto. Io ho passato un bel cavo grosso, anzi l'ho fatto fare dalla come si chiama? Non mi viene il termine tecnico. Era la stessa identica cosa, conta però che io ho la base magnetica, in questo momento sto usando un'antenna che non è per la 27, o meglio, è una multibanda che va anche per la 27, però non è un granché. Beh, lui ha sempre funzionato bene con la CD sigare, non mi ha mai dato problemi. A me funziona la CD sigare, la mia funziona, però mi è capitato altre macchine che non funziona. Nella CD sigare spegneva il motore, non funzionava, il motore funzionava, la batteria, eppure il motore girava bene, perché io mi è capitato a me di avere la batteria che non metteva in moto più la macchina la mattina e il baracchino funzionava lo stesso, se tu accendi, passava un pelino appena di batteria e funzionava lo stesso il baracchino. Per me è questione di, non lo so, forse i cavi, qualcosa c'è che non va a fare, ma non me lo ricordo, mi ricordo anche di cosa di fare quello dei punti, è venuto col fuoristrada, lo infila come si chiama, la gente si fischiava così, lo stesso lavoro, lo metteva in moto, eppure è un fuoristrada, e come metteva in moto il motore girava bene, e partiva subito il fuoristrada. Ecco, la macchina in moto girava bene il baracchino, la macchina spenta fischiava e innescava, non si capiva niente. Se me l'ha avuto, l'ho messo, già lo sai, benissimo. L'ho messo con la CD sigare, ha sempre funzionato bene. Sai cos'è? Questo da 10 watt, più base magnetica, più cavi volanti, qua è tutto appoggiato sul cruscotto, quindi immagino che un rientro può anche esserci. A motore spento magari lo fai più. Ah, una cosa comunque, Vulcano, quando io uso l'apparecchio omologato da 4 watt, anche a motore spento non fischia. Sì, allora aspetta, ci sei arrivato solo, guarda, ci siamo arrivati solo, quando ha provato il direttore era modificato, è un baracchino 10-15 watt, una cosa del genere, come questo, vedi questo qua, questo che sto operando adesso, l'ho ritirato per un amico, la stessa cosa, l'ha messo sotto e non andava, non ce la faceva, fischiava così, all'accendi sigare, la macchina in moto funzionava, perché forse ha bisogno di più corrente, non lo so, è vero che 10 watt, hai ragione, con 10 watt tu ti innesca, se tu metti un baracchino con 10 watt che è un po' potente tende a motore spento a far proprio quell'innesco così gli faceva, se metti un baracchino normale non te lo fa, è vero che non te lo fa. fatto, adesso sono 10, ho accordato perché qua se no a 1.7 1.8. Com'è il segnale? Segnale radio 1, 2, 3. Allora, io non so dove tu sei, Marco. Allora, il segnale mi sembra che sia un Santiago 8 qua. Adesso io non ho gli occhiali, sono un po' al buio. Però a occhio e croce, se trovo portata di mano gli occhiali, te lo dico due. Però se più o meno Santiago... No, la radio è quasi 5. Non proprio 5-5, ma quasi 5, capito? È buona la radio. Io sono a ottava, vediamo dove sei tu. Piazzale Segni, a metà diciamo, al centro e sì, al centro, in modo che non sia troppo addossato al muro. Naturalmente con questa antenna arrivo un centiavo di meno, o due, me ne sono accorto, con la normale arriverei 9 circa. Ma se Santiago 8, adesso l'ho controllato, no, io ho il volume basso basso qua, perché quando parla Claudio devo abbassarlo perché lui arriva più forte di radio, allora ce l'avevo più basso. No, la radio è una radio di 5, il segnale è 8, è buona la radio, capito, è buonissima. Ma sai che apparato sto usando? Sto usando un Albrecht AE5008, che è il clone del Magnum 257, quello piccolino che ha il frontalino che sembra un autoradio. Positivo, me ne ha capitato uno, chi l'avevo dato a voi, o chi l'avevo dato quel barattino, mi sembra che l'avevo dato a voi quel barattino che si smontava il frontalino, a voi l'avevo dato. No, l'avevo dato a me. Come la metto manco più un 10? Lo usciva con 10 tatti mi pare col barattino, vero? O altro? Sembra di sì. Ma c'era problemi ultimamente al microfono, cioè non cambiava bene, non so che cazzo è successo. Adesso non mi ricordo dove cavo neanche l'ho messo. Positivo, se traivi il frontalino e il canale potevi cambiare anche dal microfono, così è. Così è il tuo? No, mi sono espresso male. Allora, no, qua è fisso. Diciamo il frontale, ecco, il frontale è come un autoradio. È un po' più lungo, dietro è pieno di palette di raffreddamento perché qua scalda sempre. Anche in inverno non scalda. Vabbè, 10 watt, ma sono molti, 20 in SSB. Oh, comunque vi devo salutare perché dobbiamo andare da un'altra parte. Saluto Bombolino, Alessio, Vulcano, spero di aver capito, Claudio, quando rientra. Ci sentiamo alle prossime. Ciao a tutti. Ciao Marco, ciao. Saluto. Ciao a tutti. Ciao Marco e Iva, ciao. Ciao Iva, ciao. Saluto anch'io. Non ha mai più indizio la più corto il suo baracchino. Positivo, no, quello si toglieva il frontalino come la radio, regalava il frontalino, e così era dell'Inter che era, o di cos'era, in realtà non è che me lo ricordo più. Manco io. Comunque la gestione, non era un granché. Non era il mio neanche quello lì, era di cosa? No, era di Nando, quello del Porto Torres. E non so cosa vi ha detto, mi pare che vi ha dato 48 voi in ciambo, così era, o mi sbagliate, mi so. Mi pare. E il 48 se ne siamo cavati, io vabbè l'avrei voluto ottenere uno. Però se ne siamo cavati già perché no che non potevi attaccarlo. Se fabbricava l'omicino di casa non comprendi più nulla. Positivo, dai, no, perché ne aveva lasciato due, uno si aveva avviato Natalino, e mi aveva dato un 48, ma te sì, un 48 va via Natalino l'ha dato, non è che aveva un 48 e forse fatto fare io il lavoro a Natalino, però diciamo che lui l'aveva dato un coso, ma un mobile, come mobile, come si chiama? un Lincoln forse, che poi gli ha fatto una modifichetta a Adriano e andano sotto in Gattanare. E tutti e due mi aveva lasciato in cambio di una 48, uno mi aveva preso voi e uno mi aveva preso Natalino, Lincoln gli aveva dato Natalino, in cambio del 48. Il presidente Lincoln Guarda, è una radio che usciva anche bene, mi dispiace adesso anche darla, la verità, una me la volevo tenere. Però, cazzo, cioè, abitavo con voi, magari entrava Gio Maria, entrava Cacunato in occhi in zona, eccetera, eccetera, cazzo, mi faceva impazzire. Non riusciva a sentire più niente, per quello che l'abbiamo dato, capito? Ora Giulio De Rusaito, una via da Edo, ma una via di da me a te veramente, una c'ero io. Sì, a tutte e due poi l'abbiamo dato lui. Due, però anche questa che c'ho io, quella che è fatta a Napoli, quel napoletano, quella è la vostra, la radio, capite, la vostra. Io poi lui mi hanno messo il fontanino nuovo perché dicendo quella è la radio che mi avete dato voi. Capito, uno di quei 48 vostri è questo qua, capito, avevo mandato a Napoli, aveva provato Palmiria. Uno era nuovo, mai toccato. Il nuovo è questo che ho io, non questo che ho detto, quello che ti faccio sentire sempre, che attacco, quello che ti faccio sentire piace a te, quello napoletano con le cose, quello lì è uno. Ciao. L'abbiamo tolto solo per quello, se no come radio non si poteva dire niente, era buonissima, funzionava che una meraviglia. Ma cazzo, ma non lo potevi tenere qua, cioè impassivo, ti sto dicendo che è impassivo. Cioè non riusciva a modulare. Positivo, dai. Allora, così, mi sembra che lo sento bene questo qua, dai. E se mi sia calduto. Ho scaldato, già fa bene. Va bene che bene. Come il mio non è così, però l'unico che sento che mi fa battimento è un tonnello. Ma va bene, normale, siamo vicini con la 48. Ma non posso pretendere molto. Ma gli altri non li sento, tanto. Ti direi normale, era mentre la bella, non è affatto il freddo, originali erano. Atto, ti sto dicendo che scia di capo e non che. Cioè, andavo magari a parlare con voi in un canale, e poi caso in via, magari c'erano altri sul 5, caso in via tutti gli altri in via, infatti ci facevano uscire di testa, detto no. Lo saranno. Infatti è solo esclusivamente per quello che l'abbiamo fatto, se no ce l'abbiamo ottenuto. Ecco. Vai. Buonasera a tutti, dai. Ti ho fatto una bassa perché ti volevo far sentire questo parere tuo, capito? Non l'ho fatto un po' di regolazione con Claudio. E volevo un parere tuo, Massimiliano. Questo qua è quello di Lucca. Positivo e caparrodio, dai, quello di Lucariello cambio. Girato un altro po' girato un altro po' e così sto andando, sempre aumentando e sempre girando, forse la voce sta diventando sempre più così al massimo, la voce più grossa, cambio e ecco, è così, dai, non lo so se va bene, cambio. Così la modulazione è più bella, più corposa, più grossa e più bella. E l'eco diciamo che quasi va uguale a quello di San Martino. Positivo è Caparroglia, ed è copiato, è come quello lì, l'ha fatto senza regolazione di fatti, cambio. Thank you. cos'è stato? Ma parla. Guarda a vedere se dimmi se sta testando. Guarda a vedere. Sono l'oscolo. E poi si avvolge il microfono. Guarda, sto parlando un po' a lungo, se fa qualcosa o se va bene. No, va bene lui. Non so, quel famoso... Cosa gli ha messo? Quel famoso finale. Come ce l'hai tu? C'è il finale dietro, guardate apposta. C'è il finale con un contestatore e via dicendo. Ma c'è il doppio modulatore quello? Sì, ma è tutto nuovo, gli ha messo, ho visto. C'è tutto nuovo. Guarda chi è fuori il vecchio, però. Allora, guarda chi è il vecchio. Sì, vero. Comunque, Gigi, quando lo spegni, che si chiude tutto il baramà, praticamente ogni tanto manchi, c'è qualcosa che non mi convince. Ma lo sta facendo, no, prima era tutto svitato il microfono, Cla. Non so se lo sta facendo ancora adesso, era il microfono che era svitato, non era svitato, hai capito? Ogni tanto volevo segnare che stacca un pochino, non lo so. Non trova bene il microfono, allora. Ma sai cos'è Massimilia la cagata? Per modo di dire, perdonatemi, ma è che quello quando lo chiudi i watt da tornano, si chiudono, capito? Mentre il mio, anche se è chiuso, i watt rimangono gli stessi, capito? Il mio rimane lo stesso, manca solo l'eco e butta il beep, capito? Il mio così come il tuo lo stesso, i watt funzionano lo stesso quando non passi la canalizza. Perché lo vuoi usare normale con il microfono da tavolo come lo uso io, cioè sempre 40 watt, capito? Poi quando lo usi lo abbassi a 2 watt e mezzo e lo usi come lo devi usare. Un secondo che vado a prendere una sigaretta, riprendi un po' lì. Ma fuma, fammi era un pochettino come si dice in quel rig, perché sto guardando una cosa gaffa, mi senti lo stesso lì a Massimiliano, mi senti lo stesso? Perché non ti devo sentire, cosa vai? Ah, già mi senti già. No, pensavo che non mi sentissi con questo. Perché ho sempre sentito una vita, no? Non ti sento, c'è problema. Gigi, non lo sentire attaccato, non vedere se cambia qualcosa. Cosa? Il microfono, tu mi fai il microfono, mi cazzo, Luigi, Luigi, come lo puoi rifare il passaggio? Perché ti ho sentito che ero lontano. Sto prendendo la bene. Puoi rifare il passaggio, vai. Positivo è capo a Roger, dai, questo. Questo è quello mio però, attenzione, questo. Questo è il mio. Si sente che questo è diverso dall'altro, questo è il mio però, il 48. Però ti faccio ascoltare l'altro adesso, hai capito? Ti faccio ascoltare anche l'altro. Allora, no, mi devi fare, di nuovo il passaggio che hai fatto a loro, perché io ti ho sentito ma da lontano, quando sono arrivato in camera avevi già lasciato. Rifai il passaggio di prima, vai. Quale? Quello che ho fatto a Massimiliano. Avanti Massimiliano Bulldozer, cambio, cambio, cambio. Micidiale. Vabbè, cazzo, ti rendi conto che Gigi è abituato a fare andare così. Anche io se lo accendo, ma non agisce la gara, vado a casino. Se lo accendo la modulazione è molto molto grossa. Capito? Voglio vedere come esce Luca di Monteluca con quel cazzo di barattino. E tu Massimiliano, prova a vedere. Prova Massimiliano a vedere. S0 K506 chiamata. Il K0, IS0, carretto da giù. IS0, K506, sta chiamata, buonasera. Tu ti chiami il balcone di giù, no, tu ti arretto, no, IS0. Eppa sì, la raccoglie là, ci mettiamo IS0, buonasera. Non sei all'altezza tu di IS0. Guarda, mi ho preso la patente anche in quella IS0. Ma la patente per guidare la motocicletta. E non questo è proprio per la patente per il radiamatore, non preso mai. Accetta anche quella gente che sta il patentino per il palazzino, cambio. Ma era giù, mai inteso, un tucano con la patente. E tu sei una categoria, come io sei, quindi non la puoi avere la patente degli invalidi. Ah, era giù preso, le patente di per la sentenza di invalidi, di un tutto sono i meccanti, il tanto che sono invalidi. Infatti, è così. Ma con te la trovare a chi? No, niente da fare, sto uscendo con male, sta sotto. Ah, sì. Cosa vuol dire questo sì? Perché il segnale è troppo alto, non sei con la 48 tu. Il segnale è troppo basso, ho tutte le sue guide che sono attesa. Vai, e buffami la brancia. Questo è il solito segnale tuo, la modulazione è la tua. L'hai già ritirato? No, non hai capito. E la mattina non sei a passare figlia per il microfono, ho pubblicato. Va bene, guarda, io sto prendendo un 140 con l'MC60, se ti interessa fammelo sapere, capito? Se mi metto una pensione e troppo lavoro, posso fare anche questo e l'altro. Va bene, allora te lo dico come lo vai che hanno da mettere la pensione, beh anda. Tu cazzo ti avevi mancato, non puoi dire mancante. Ormai ci mancanto da Luca, manicomio, poi c'è Antonio Pomponio, è morto, Antonio Bombo, non so se lo senti, Gigi Voltano, Massimiliano Bulldozer, vai per chi vuoi, di mancanti veniamo un bel, non lo rilanciamo a me però, eh. Che la raccoglie me, adesso mi si chiama, no? Attenzione, stazza, ritazza, lo puoi dire mancante, ha toccato il sorso, un primo campo. Dai, Luca Rie. Ehi, ma sono io già, amico, ehi, vuole che dia, ma forse, ok, ma a me siete due a me. Ti intendo una legge, sì. Te lo disegni, non ti basta avere un tucchino, non ti basta avere una patente, non me lo comprendi. Ehi, a Fabrio, se no, se lo comprendi, la marita a me, se lo comprendi, fa finire. Se vuoi prendere la porta cervo, io ho avuto una festa con un amico mio, la Gustoni, e sto per tratto. Sognate il video e mi devo distrarre tutto. A te, stata, richiamo. Allora, vedi, un tucchino, a porto cervo mi cazzi bene, ma la sua non mi cazzi bene. Ehi, ma è pronta. Però devo fare molte cose appoggiate, devo fare stanotte. Domando, se vuoi dire video stanotte, il servizio notturno, tutto qua. Racconta. Per fare il devo comprare un matto per questo caso. Se lo conosci qualche duro, dimmelo. Ah! Pure su quelli di guardia, salotti. Esatto, su quelli di guardia, non lui qui, se forra. Non ho preso mai. E io? Ma tu mi dici che sei arretto, no? Cos'è? Ma Giuditto, non mi dici che sei arretto, no? No, no, no, e... Andare, no. Andare, mi metto una ziota, boh, ciao a me. Casino è un casino, va un casino, mamma mia, mi si quasi addosso una cosa, un braccio, chiamiamo un braccio, l'anca. Come? Tutti proprio giù in situazione, ma fa problema che tutti che fai in 144 che ti stanno, non sono tutti. Bravo, che tu gli ha dito, andiamo. Ci sentiamo domani di telefono, cambio passo, buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Ciao Antonio Giuseppe, buonanotte, la prossima, dai. Vado a scherzare con te, ciao. Giuseppe, a te buonanotte, fai da bravo. Ciao, fai conosce, buonanotte, Sciuscio. Fatto la cosa. Mi ha già visto. Ma pensavo tutto pure lui, pure se non mi racconti. Oggi non è di, ho preso un motorino qua. Luego quello sbabuzzino con il motto. E lì è passo. Sapevo in via Petromicca. Boh, si può una moto, tu no, porca puttana. Si è fermato, siamo andati a Salverio, quello sotto smontata, questa cazzo era. Praticamente si è incollato il galleggiante. E purtroppo la benzina non passa. Perché se scende il galleggiante la benzina scende. E giù di smonta tanto la moto, vai tutta maricata, tutta accelerata, non passi più l'accensione, vai giù la gomma a terra, Dico mi fa andare a piedi, lasciare stare così com'era. Io. Non fa sentire, era la 48, non le si cazzo. Mamma, dopo aver cambiato il tavolo di alimentazione, adesso devo passare dietro, ce l'abbiamo in cu. E sto provando con la tua radio stasera, e quindi quella devo farla staccata dall'alimentatore. Vabbè, non mi fa un cazzo. Avanti, Massimiliano. Riprenditela, maniando hai. Massimiliano. Maniando hai. Che se deve, ne ha tanto impari, riprendi tu gli divulga, va? Stavo perdendo, cazzo, è la prima volta lo piava. Cazzo di aro, beh, non puoi dire, un attimino sta andando a bere. Cazzo, non ti mette capo il bugnetta, sì. E se la difende più di bongo, no? Bingo bongo, tu la bongo. Gaba, gaba. Dici, fammi sentire questo di Luca attaccato, lo voglio sentire da po'. Ma che cosa dici? Ma non lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo Buonasera a tutti quanti i componenti del canale 10. Titolo è, mica questo qui è un canale porno, lì. Non so se puoi entrare, buonasera. Vai, ammazzati, Massimiliano. Ehi, Santo Mass. Beh, zio Sparviero. Scusa, tutta la gira già a me, ti mando un amico, dici? Cappa, sono chiuso le pupille, là. Sono sceso i trachele. Di risotto, le pupille di sotto. Pupille della gonnuppa di cioccolati. Sì, intanto non era poca la stanchezza, là. Aspettate un secondo, Gigi, fammi sentire questa cosa, là. Cado, là. No, chi sono che tengo? Oh, ce l'ho attaccato. C'è un altro detto che sta fischiando pure, non so per quale motivo. Sì, sta scendo tutto male, controllati qualcosa. Forse non vede, non per ubile attaccato Yusha. Non si scende questa camera e correa. Grazie. Ehi, c'è qualcosa che non va. Mi fa una radio brutta. Giusto, dire l'attaccare ora, guarda tu di Luca attaccato la camera e cava. Se si attaccava la camera, ecco, attaccava tutto. Era per sentirlo acceso, attaccato, per sentirlo come quello là. Ma io faccio di tutto, attacca il 48 e fagli dare i sali. Cazzo poco fa? Sì, se non hai attaccato, si guasta. Guasta? Capa, capa. Bianca si sente. Sì, e beh, stavo scendo male. No, adesso bene. Ma stavo scendo male o stavo scendo male? Una cosa mollata, no? Non lo so come la si vede tu, ma il primo passaggio che ho fatto è come prima, mi tutto è... Guarda a vedere se tocco, se fa qualcosa, vedete, guarda a vedere. Adesso è perfetto. Sei grazie. Avanti, c'è. No. Non c'è problema, cambio... questo è sempre quello normale, se sta andando male questo qua. Questo è il radio, così, c'è sempre quell'alternata sotto però, eh. Ma se non vedo prima, c'è l'alternata, che cazzo, mi avevano già compreso. Lo so, io questa alternata te l'avevo sentita, già da un po' di tempo. Però si sente l'alimentatore o Massimiliano. Può essere, magari anche mancanza di massa al microfono, può essere anche quello. C'è qualcosa da ricontrollare lì o Gigi. Io glielo avrei mandato indietro. Oh, guarda adesso a vedere così. Se ne sa fa qualche innesco, qualcosa così, Massimiliano. Ma innesco non le hai lui, innesco non le hai, è l'alternata che c'è. Adesso qua l'alternata c'è qua. Io? Guarda, io mi ho messo le cuffie, metti la portante senza parlare. Sento... lo senti? Io le cuffie, sì. Ma vero, sono stato tra la creata e poi mi sono fatta male. Mio, hai capito, Cla? Quello che non so sempre... Cosa hai detto? Dio. Sono andata a fare che non mi interessa una passeggiata che non ho capito. Che fai? Ciao Gaia, un bacio grande, ti manda Claudio Sparviero. E le papà papà, me lo fai sentire? Sono andata a casa. Saluta Claudio Sparviero. Ciao. Come si chiama? Sì, come si chiama? Claudio? Sparviero. E poi che c'è anche? Ciao. Ciao Gaia, Gaia, ciao. Anthony sai, tu Anthony sai. Che cosa l'ha capito? A me. Ti ho detto, io spero di conoscerti. Ah, ma già mi conosci. Un po' piccolina era quando l'ho vista io, adesso è cresciuta. Piccolina, adesso l'hai vista un mesetto fa, ti ricordi, io sono voluto portarti quella cosa. Ah, è vero, hai ragione, io che mi ha toccato la mano, è vero. Sì, positiva. A casa l'ha detto, forse stavi parlando sotto, gli ha detto, ciao Claudio Spade, lo sai che mi sono sbattuta la testa alla finestra e mi sono fatto la bua? Non l'ho sentito, che mi trovate sempre sopra. E mi tocca fare anche a casa mia! Lo sai che ce l'ho anche io il papà papà, lo sai. Senti cosa ti ha detto, c'è papà papà lui. Aspetta. E tu ce l'hai papà papà. Forse è papà papà che mi sento sentire, va. Lui, comunque ti devo dire una cosa. Non c'è paragone dal tuo 48 a quello, sia di modulazione, di eco e tutto il resto, eh? Ma già lo so. E poi di mattessi di nascita, di da come le falli da Edu. Ah, da Edu. Da Sabba. Fatto bene quello mio. Massimiliano. Dimmi. Prima di chiudere... Ti volevo dire, forse questo non l'ha mai sentito, come esce questo apparecchio? Allora, qui sta arrivando con un segnale di 6, però la radio è bella forte, 5. Sto utilizzando l'Alfayette Venus, va bene, sì. Beh, se devo essere sincero, Arto, mi piace più questo del 550. No, poco fa non stavo usando il 550, stavo usando lo Zeus. Scappa. Quello lì è quello che... questo qua è quello che c'è così nel microfono. Scusate se sono entrato così. No, anche questo mi piace di più, la modulazione. C'è una bella modulazione, bella, forte. E mi piace di più, devo essere sincero. Ma come Luigi da te, ti piace? Va bene, Arthur, va bene. bene, che bene. No, vabbè, vabbè. Scappa. Questo qui è quello che c'ha tutto nel microfono, l'Alpha Jet Venus, quello piccolino che si mette dappertutto. Scappa. E Cosmo, Claudio, lo sente migliaia di volte. E mi lo stavo facendo sentire a Cosmo perché non l'ha mai sentito. No, bello, mi piace, mi piace. Ok, dai, adesso vi auguro buonanotte. Infatti ci ho pensato adesso, aspetta che l'attacco glielo faccio sentire. Quello lì è quello che uso in macchina lì, nella 6 anni lo tolgo, non si sa mai. Uso nella, come si dice, nella strada, dai. Nella fusoliera. Ma no, non ti cambia la tariffa, non ti cambia niente. se mi chiamano a me pago pure io, paghiamo in due, tutte e due, è un bel puro mi piglia Medina. Grazie di più, no, io ho chiamato un collega, era poco che era in Corsica, e mi ha detto che non ci pagava nulla, cazzo, ma mazza me li fai, quando torno la travaglia li facevo culo. Ma ragazzi, non ci vuole cazzo. E lui mi ha detto che non ci pagava niente, invece a quanto pare non è così. Comunque io al limite provo a chiamarti, dai. Metto tutta birra qua e provo a chiamarti con questo quello da 48 per vedere se riesco a tirarti fuori. Io a Giampaolo l'ho sentito, a Giampaolo nella collinetta lì di quella montagna che c'è, non so come cazzo si chiama, e lo sentivo, ma insomma lo sentivo. Ma Tattarella, ci arrivi tu qua? Sì, che ci arrivo. Sono stato a Teresa, no, non sento nessuno, lo stesso. Però raro, non lo so. Non lo so, vediamo un po', dai. Andrà bene. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ragazzi, sì che ci arrivo a Santa Teresa, non sono problemi. Ciao, Gigi Bocca, ci aggiorniamo domani, allora, dai, prima di partire. Alle velocimine. Cazzo, tu ospiti a mezzanotte, vai, Massimiliano. Via, via, positivo. Positivo, allora tua mia suocera, dai, a trovare, mi succede a trovare, dai, via. Non siamo soliti noi, sono scesi loro, là. Ok, dai, Claudie, ti lascio. Se poi domani mattina hai voglia di pagarmi il caffè, vieni a San Giovanni e ricordati di portare quel cavo. Chiara, io domani mattina, guarda, alle 8 sono alle poste, perché sono andato stamattina, devo pagarmi i discari e poi devo fare un bonifico di 20 euro per la roba del materiale che ho comprato, della cazzo di 20 euro, ma di 200 euro, e quindi vado presto, appena mi libero dalle poste, Massimiliano, ti chiamo e ci prendiamo il caffè, capito? Tanto alle 8 io devo essere lì perché sono sto cazzo di pensioni. Stamattina era pieno di gente e me ne sono confuggito. Va bene, dai, allora quando ti liberi fammi una bassa e niente, va. Ci sentiamo, ci prendiamo il caffè. Mettiti il cavo in macchina. Allora il cazzo bisogna ne 8 da adesso, dai. Adesso dovrebbe essere qua dentro l'armadio, questo dove c'ho tutta l'attrezzatura. Ne lo tolgo adesso, va bene, gamba gamba. Va bene, va. A domani mattina allora, Claudio, va. Ci sentiamo domani, va. Ti chiudo, va. Ciao Claudio, buonanotte e cari ascoltori, ciao. Ciao Max, ci sentiamo, ci aggiorniamo domani, adesso ti chiamo io appena mi libero dalle poste, ciao, ciao, ciao. Saluto a San Francesco, un bacio a Gaia, ciao. Ciao, va, va, ringrazio, ciao, ciao. Lugariello. Potente. Questa è una radio modificata con l'eco, capito? E allora ascolti male. Ti ho chiesto da dove stai modulando, io sono una sassare, tu da dove stai modulando? Diciamo così, parte alta di Monte Bianco. Allora, è per quello, io sono invece la parte alta di Carbonazzi, punta di Scala di Ciocca. Thank you. radiale sì, molto alto, sono 9.30. È positivo, aspetta che ti commuto tra parecchio. Questo è una 48, adesso uso l'ala 68, aspetta. E io invece sono passato con quella normale, dai. Sempre lo stesso baracchino, però con il microfono di tavola. Mi senti meglio, Giorgio? Adesso ti sento bene, diciamo che dopo che hai tolto l'eco riesco a percepirla molto più chiara la voce, capito, rispetto a come di prima, adesso è abbastanza chiara, ok? Sì, è bene con l'eco, se non si è abituato è molto fastidioso, non so come facevo le prove con degli amici che hanno l'eco, allora ho attaccato questo. Adesso ho chiuso l'eco e ho rimesso il microfono suo da tavolo, dai. Avanti Luca. Ok, adesso sto usando la 68 con il microfono di tavola. Va meglio? Per me va meglio, per me è ok. Va meglio. Volevo dirti di... Ora mi sfugge il nome. E comunque io, diciamo, modulavo dal tempo che c'era Mario Bravo Sassi. Non so se te lo ricordi. Sì, ma io sono qua a Sassari dal 1983. Provengo da Porto Torre, se ti ripeto, ho sempre mantenuto questo nominativo in 27, Claudio Sparviero. E poi sono diventato radioattore nel 93 e basta. Continuo a parlare qua, in cielo, in terra, in ogni luogo, anche sopra le punte degli alberi. Ok. Va bene, ora mi sono dimenticato tutti i nominativi di tutte quelle persone che c'erano un tempo, diversi anni fa, poi sicuramente, e continuando a parlarci sopra, se li ricorderai tutte quelle persone. Comunque fa un effetto un po' particolare, così come è la tecnologia, capito? Rispolverare un apparecchio dove hai tenuto sempre l'incognita con le altre persone perché non l'hai mai conosciuta, capito? E questo è il bello, è simpatico dopo diversi anni di così rispolverare quello che hai messo da parte 25 anni fa, capito? Guarda, io qua c'ho baracchini che avevo in concessione, o il baracchino che avevo in concessione nel 1973, che si chiama Lafayette HB23, e posso anche fartela sentire, non ho problemi. Io ho tantissimi baracchini, molto belli, grandi, base, veicolari e così via, poi gli altri sono, vabbè, le radio chiuse in banda amatoriale, però baracchini vecchi io ne ho tanti anche belli, escono molto bene. Questa è una LAN 48, vabbè, è una prima serie, però va alla grande. Ma ora HB23 che è fantastico, veramente, è un'ottima ricezione, quindi non è che ti puoi lamentare. Le radio di un tempo avevano quella timbrica che serviva giusto per farci ascoltare e per scambiare due chiacchiere, poi gli altri sono venuti tutti dopo, quindi insomma, va bene lo stesso. Avanti Luca per Giorgio. Giorgio, non l'ha sentito. Sei nuovo Giorgio? Diciamo che sono nuovo, rispolverato, ecco, usiamo questo termine così, rispolverato, ecco. Parliamo di più, Valo. Perché è fatto bene, un bel no, aspetta qua, no, perché non l'ha sentito, non me l'attivo, qual è Giorgio? No, non ho capito. Ho detto, non me l'attivo, è Giorgio? Giorgio, un tempo mi chiamavano Master. Master? Sì. Master non era Fabio, Fabio Master. Ma io sto uscendo, Era così senza processore. È così con processore, ok. non te scendo anch'io, ho contato questa che lo ascolto meglio. Aster, Aster, Giorgio Aster, come nominativo no, non mi dice niente, forse modulato in un periodo magari che io ero un po' assente perché ho lavorato fuori, quindi rientravo una volta alla settimana a Sassari, perciò non avevo molta voglia di parlare, non lo so. Comunque questo Aster non mi dice niente. Io ho detto che ho messo da parte la parecchio 25 anni fa, ma forse è ancora molto prima, capito? E era l'epoca di quando c'era Passero, Rosetta, Mario Bravo Charlie, Elio, Prezzemolo, tutte quelle persone lì, e poi si rivela anche il problema. Computer e i nuovi telefoni di nuova generazione hanno fatto qualche giorno che infatti mi hanno installato qua questa antenna, diciamo, di vigilanza con questo baracchino qua, e una cosa che ho notato è che non ci sono voci femminili. Che antenna hai montato? Una vecchissima Grand Prix, capito? E me l'hanno ben sistemata, me l'hanno data una pulitina e non hanno controllato chiaramente le stazionarie e quindi chi la capa? Sì, a tutti i bimbi, fino a quando va va. Le vecchie Grand Prix hanno sempre funzionato bene, stazionare ne hanno dato sempre ben poco. E soprattutto hanno fatto grandi prestazioni. Scusami un secondo, Giorgio, mi sta chiamando mia figlia che ha un problema col decoder, non ho capito che cosa è successo. Un secondo solo arrivo. C'è il decoder. Non accende, ho capito qualche cosa. Ricordami il tuo nome. Claudio Sparviero. Claudio. Ok, io Claudio, quindi adesso così, con questo passaggio approfitto così, chiuso, perfetto. Niente, mi ha fatto piacere veramente ascoltare qualcuno, così, una persona che magari in tempo indietro avrò chiacchierato sicuramente. Ok, la buonanotte e le cordialità anche alle persone che stanno ascoltando. Ciao, ciao. Giorgio, piacere mio, grazie per essere entrato, ti ripeto, noi durante il giorno e anche la sera, dopo pranzo, dopo cena, insomma siamo sempre qua sul canale 10, o sul 10 o sul 14 ci trovi sempre, qui sulle scandere